Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo anno, ma non perdiamo le buone abitudini, quindi ci ritroviamo anche oggi che è giovedì con il classico appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori, oltre che un augurio di buon anno. Bene Carlo, il tema che affrontiamo oggi è un tema importante perché c'è un recente sondaggio che ha mostrato amaramente come il 70% dei giovani non abbia fiducia nella ripresa dell'economia italiana. E anche i dati sull'invecchiamento della popolazione che ha lavoro confermano questi timori. Infatti sono sempre di più i 55enni, 64enni che sono aumentati al lavoro, contro il calo nel lavoro di 1,6 milioni tra i 25 e i 34 anni. Come dicevi tu, siamo qui per parlare di quelle che sono un nuovo dato che è stato annunciato pochi giorni fa dalla Confindustria, che ha voluto fare un focus su quelli che sono un po' gli over 55 ancora attivi rispetto a quelli che sono gli under 35, che risultano comunque sempre con valori di disoccupazione molto elevati. Certamente è emerso come rispetto a pochi anni fa gli anziani, definiamoli così, sono occupati per oltre 1 milione rispetto al 2007. Parliamo di problemi di lavoro, perché la crisi c'è e permane. Mi dicevi fuori dalla diretta che i dati Istat confermano insomma la gravità della situazione. Sì, allora per agganciare un po' quelli che sono i dati Istat rispetto a quella che è l'indagine a Confindustria, dobbiamo anche fermarsi un attimino a ragionare su quelle che sono state un po' le riforme che questi ultimi governi hanno avuto attuare sul nostro sistema previdenziale, con il risultato che appunto rispetto al 2007 gli over 55 occupati sono oltre 1 milione, quindi sono veramente tantissimi. Queste sono persone che portano via lavoro ai giovani, e di contro abbiamo il dato diffuso mercoledì da ANSA, che aveva andato a annunciare come i giovani di età inferiore ai 25 anni, quasi 45%, sono risultano ancora inattivi. Quindi due dati che sono contrapposti loro, ma che certamente dovrebbero indurre chi sta al governo a valutare un attimino se le scelte fatte in quest'ultimo periodo sono state efficaci, perché alla fine, come ha detto anche il Papa mercoledì, il valore che la famiglia dà, soprattutto anche in ambito sociale per quanto riguarda le tutele, sono diventate superiori rispetto a quelle che oggi invece dovrebbe garantire il governo, che sostanzialmente si sta rivelando un vuoto assoluto. Ecco, c'è un po' da cambiare lo stile di vita. Io sentivo proprio questa mattina alcune chiacchiere dove si diceva che il futuro sarà più lavoro e meno finanza. Speriamo che sia veramente così, perché bisogna ritornare a dare ad ogni persona la possibilità di poter lavorare, di vivere degnamente, no? E quindi togliere invece tutti quei grandi guadagni che la finanza, e anche grandi perdite che la finanza certe volte dà. Beh, certamente, sicuramente, anzi è così. E per quanto riguarda anche oggi dover parlare di lavoro, si spera che insomma gli ultimi interventi che il governo sta attuando in questi giorni, per ultimo anche il Job Act, che dovrebbe prevedere degli incentivi ad assumere a tempo indeterminato, veramente comincino a dare un'inversione di tendenza rispetto a quello che negli ultimi 20 anni sostanzialmente non c'è. Però è anche vero, come se confrontiamo i dati dell'Italia con i dati della Germania, la Germania in questo periodo il tasso di disoccupazione è ai minimi storici, mentre quello italiano è ai massimi, e sicuramente non c'è previsione che dirà che diminuirà nel prossimo medio periodo. Quindi a questo punto bisogna veramente riflettere se quelle che sono state le iniziative che i governi in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni hanno attuato, sono state veramente efficaci, o se esattamente si sono rivelate poi che hanno sortito effetti diametralmente opposti, come la famosa riforma Fornero, che penso tutti quanti ormai abbiamo imparato a ricordare bene, e certamente dal punto di vista previdenziale ha creato tantissime vittime. vittime, disagi e problemi incalcolabili per certi versi. Che cosa succederà? Mi era parso che con l'inizio dell'anno scattasse anche qualche mese di... si va in pensione più tardi, è vero? Purtroppo sì, la riforma di Berlusconi che doveva andare in vigore nel 2024, Fornero l'ha anticipata nel 2019, per cui sarà in pensione più tardi, e addirittura si cercherà di dare l'età della pensione un po' all'aspettativa della vita, cioè allungandola di 4 mesi ogni 2 anni. Anche vero che su questi ragionamenti che stiamo facendo, però qualcuno si è posto anche delle domande, e la domanda più importante è come poter riuscire a inserire i giovani anche nell'ambiente del lavoro, perché sostanzialmente oggi i giovani non sono competitivi, perché al di là di quelle che sono le tipologie contrattuali che fino ad oggi sono state il vaglio dei nostri politici, in realtà risultano che quando escono dalla scuola non hanno quell'esperienza o quella praticità utile per l'azienda, e quindi si dovrebbe anche fare un certo ragionamento che parte dalla scuola per aiutare i giovani ad inserirsi, e dopo si dovrebbe cominciare a ragionare su quelli che sono gli interventi efficaci per poter incentivare le aziende ad assumere questi ragazzi. Certamente non si può continuare a ragionare di allungare l'aspettativa della pensione o fermando gli anziani al lavoro, perché questo, ripeto, non produce nulla se non che continua a creare disoccupati. E persone infelici, aggiungo io. Vabbè, allora, Carlo, mi sembra di capire che siamo all'inizio dell'anno, ma c'è moltissimo da lavorare a livello di norme e di regole per cercare un attimo di risistemare ancora questo nostro vecchio paese malandato. Noi ci ritroviamo ovviamente con te nel prossimo appuntamento di martedì prossimo, sempre qui su Blu Radio Veneto. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.